Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Dove sono finite le stelle? Intanto buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt, che questa sera affronta il tema del risparmio energetico da un punto di vista solo apparentemente secondario. Ci occuperemo infatti di inquinamento luminoso. Tornando alla domanda iniziale, è evidente che le stelle sono lì, sono sempre al solito posto. Il problema è che in molte zone abitate, soprattutto nelle città, non si vedono più, cancellate dalle luci dei lampioni, dalle luci esterne di casa, dalle luci degli stadi, dalle luci degli aeroporti. Ebbene, tutta questa luce che finisce in aria è per definizione luce sprecata, quindi oltre a cancellare uno spettacolo offerto dalla natura, rappresenta un enorme spreco. Insomma, lotta all'inquinamento luminoso e allo spreco energetico sono pressoché la stessa cosa, anche se non esattamente la stessa cosa, come vedremo più avanti. Ne parliamo con Francesco Giubilini, che è referente per la Toscana dell'associazione Light Is, la quale ha per scopo proprio la diffusione di un'etica dell'illuminazione che tenga conto di tutti gli aspetti, sia energetici che legati alla qualità della vita, che hanno a che fare con l'illuminazione. Buonasera Giubilini. Buonasera a lei. Cominciamo così, ci faccia qualche esempio tipico di inquinamento luminoso. Allora, nelle nostre città sicuramente l'esempio più lampante sono i lampioni a globo non schermati, che quindi quelli a forma di palla che sparano luce dappertutto, a forma di palla che diffondono la luce ovunque e disperdono una gran quantità di energia. Poi un altro esempio piuttosto lampante sono l'illuminazione di molti monumenti, che viene fatta con fari molto potenti dal basso verso l'alto, senza nessuna attenzione, diciamo, a dove poi va a finire la luce, e questa luce è in gran parte sprecata. Allora, che cosa fa la qualità dell'illuminazione? Quali sono i criteri principali? Allora, sicuramente uno dei criteri principali per avere una buona illuminazione è quella di usare dei lampioni full cutoff, quindi dei lampioni schermati che indirizzano la luce soltanto dove deve essere indirizzata. E poi è molto importante anche tenere presente l'uniformità dell'illuminazione, cioè l'illuminazione non deve essere, come si dice, a macchia di leopardo, ma deve essere il più uniforme possibile, in maniera da concedere, diciamo, all'occhio di abituarsi bene e di vedere maggiormente la scena circostante a quella illuminata. Questo è anche un problema che viene fuori spesso quando si parla di sicurezza. Certo, infatti l'idea che passa maggiormente è quella che per avere più sicurezza, per esempio nei parchi o nelle città, si debba per forza aumentare l'illuminazione. In realtà questo è un problema che, illuminando di più, viene accentuato, perché si aumentano i contrasti fra le zone illuminate e quelle meno illuminate. Per cui la cosa fondamentale per aumentare la sicurezza è quella di aumentare l'uniformità dell'illuminazione, per evitare che si creino appunto delle zone troppo luminose, che quindi vanno ad abbagliare il nostro occhio, in contrasto a zone adiacenti che rimangono, diciamo, relativamente più buie. E quindi non le vediamo come se fossero completamente buie. Esatto. Ecco, quindi quali sono i criteri per progettare un'illuminazione pubblica che sia al contempo efficace, quindi illumini bene dove serve, quanto serve, ed anche efficiente? Allora, il progetto illuminotecnico sicuramente parte da un censimento dello stato attuale dei lampioni. Quindi si va in giro a vedere com'è la situazione sul territorio, dopodiché si procede solitamente alla messa a norma di quello che non è a norma, chiaramente, e poi ci sono delle accortezze da prendere, per esempio sul tipo di lampada che si sceglie, perché dobbiamo adeguare la potenza della lampada al terreno che andremo eventualmente ad illuminare, perché ci possono essere delle situazioni in cui c'è un terreno che riflette molto, per esempio un muro chiaro o qualcosa del genere, per cui posso utilizzare una lampada meno potente. Certo. E viceversa, se ci fosse un terreno che assorbe molto la luce e quindi riflette poco, devo utilizzare una lampada un po' più potente. Quindi questi sono ragionamenti da prendere in considerazione. Poi sicuramente bisogna ottimizzare il numero dei pali che vengono installati. Tutte le leggi migliori, diciamo, contengono un limite al rapporto tra l'interdistanza e l'altezza del lampione, che è 3,7, questo per chiaramente ridurre i consumi, quindi ridurre il numero di pali, ma allo stesso tempo garantire un'uniformità, come dicevamo prima, ottimale, che è quella che poi deve essere alla base di una buona illuminazione stradale. E poi sostanzialmente l'utilizzo, quando possibile, di regolatori di flusso, comunque in generale di strumenti che possono regolare l'intensità luminosa, il flusso luminoso in base ai reali utilizzi della strada. Per cui si può decidere, facciamo un esempio, dalle 6 alle 10 la strada è molto trafficata, quindi deve essere ben illuminata. Dopo le 10 magari il flusso di traffico si riduce di molto e quindi le norme prevedono che si possono installare degli strumenti che possono diminuire il flusso luminoso. Quindi diciamo che viene fuori molto bene da questo tema dell'illuminazione pubblica come il risparmio energetico non comporti un minus in termini di qualità e di comfort, ma semmai esattamente il contrario. Anche perché voi non volete oscurare le città, le volete illuminare meglio. Assolutamente, assolutamente. Bene, grazie a Francesco Giubilini. Vi segnaliamo che sul sito dell'associazione Light Ease, www.light, scritto come luce, lightease, tutto attaccato.eu, si possono recuperare suggerimenti e informazioni sulle buone pratiche di illuminazione. Ci troverete anche una posizione critica rispetto all'uso dei LED per l'illuminazione pubblica, che non abbiamo avuto il tempo di approfondire in questa sede. Ricordate che la progettazione dell'impianto di illuminazione deve essere mantenuta rigorosamente separata dalla sua realizzazione, anzi, meglio commissionare più di un progetto. Per gli appassionati di astronomia, che sono i più danneggiati dall'inquinamento luminoso, c'è anche un'altra associazione che si chiama Cielo Buio, la trovate su internet. Questo è tutto, Mr. Kilowatt torna lunedì, parleremo di microcogenerazione.